Sembra una mosca contro il vetro, sai? No, quella è la pecorella, anzi la La mosca impecorita. Va bene. Ma questo qui, Drago, è solamente il preludio, senti? E il sound? Che sta crescendo, perché anche oggi, dopo 7 giorni inutili passati ad aspettare questo momento, Drago oggi. È venerdì. Ormai questo pezzo qui è entrato nel cuore di tutti i commercialisti, tutti i fiscalisti, tutti i dentisti, gli elettricisti, tutti quelli che ascoltano Radio 24, ma che in realtà passano tutta la giornata a sentirsi il palinsesto sulle borse, il traffico, così tutta la settimana, i soldi, lo spread, ma in realtà loro aspettano che arrivi il venerdì. Finalmente è arrivato il venerdì qui su Radio 24 e quindi partiamo subito con la Hit Parade del weekend. Ho sbagliato tutto, infatti qua si sta anche spegnendo lo smartphone. Fermate tutto. No, niente, venerdì che non va bene. Esatto. Non va bene sto venerdì. Bisogna tornare all'asilo, basta discoteche. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Bentornati a Chiedo Asilo, un saluto da Kappa e un saluto da Drago. Venerdì. Va bene, va bene. Venerdì l'abbiamo capito, ecco. Ho visto anche che ha molto successo questa molto, cosa del molto, venerdì. Molto. I nostri ascoltatori su Facebook. Soprattutto ha successo perché non è venerdì, ma è venerdì. Loro spontaneamente, senza costrizioni, scrivono proprio venerdì con l'H. Sì. Sono bravissimi. Vi voglio bene in questo il guru del venerdì. Va bene. Comunque, attenzione agli aquiloni, gente del venerdì, se siete in Pakistan a passare il weekend e volete far volare un aquilone da qualche parte in Pakistan, dovete stare attenti perché vi possono arrestare per possesso illegale di aquiloni. È successo dei bambini dai 10 ai 15 anni a Lahore. Ma sì, Drago, a Lahore, cioè qui stiamo parlando del venerdì, commercialisti che si lasciano un po' andare e niente, bisogna andare con gli aquiloni in Pakistan, però ti arrestano. Che c'è gente che per gli aquiloni farebbe di tutto, anche il Pakistan. Sì. E in Pakistan però c'è il possesso illegale di aquiloni. Capito? I bambini poi sono stati rilasciati in quanto minori, consegnati ai genitori. Storia è finita. I poliziotti pakistani alla fine sono bravi. Sono umani, molto umani. Cioè ti arrestano, però poi siccome sei un bambino. No, ma anche se fossi un adulto, io credo. Alla fine è vero, alla fine 3 anni fa è stato solo vietato di usare gli aquiloni. Perché? Perché? Perché i bambini manovrano gli aquiloni non stando, non so, sulla strada, ma sui tetti e quindi cadono giù. Quindi hanno fatto prima, hanno vietato il possesso di aquiloni, se ti beccano ti arrestano. Mi sembra una bella notizia, no? Ma scusa, ma in Pakistan hanno la guerra, non so, la fame, cosa hanno? La fame no. Hanno gli estremisti islamici, c'è Al-Qaeda. Hanno trovato, scusa, in Pakistan non c'era Bin Laden. A Abbottabad c'era Bin Laden. Nel compound, sì, no? La parola che poi è diventata di moda, era tutto un compound. Adesso non si usa più compound. Adesso si usa capannoni. Cosa si usa? Capannoni. Perché lo dici così? No, perché alla Brianzola è un po' di moda adesso la parola. Devo pagare le tasse sul adesso capannoni. È più di moda Pirelloni, ho sentito dire in questi giorni. Comunque va bene, passiamo oltre. Questura è di moda. Sì. Comunque scusa, è più facile combattere gli aquiloni o Al-Qaeda? Cioè tu mettiti nei panni di un poliziotto pakistano, cosa faresti se potessi scegliere? Allora, stamattina una pattuglia va a cercare i talebani in montagna, un'altra pattuglia va in città ad arrestare i bambini con gli aquiloni. Chi si offre volontario per i talebani? Nessuno. È così che funziona, prendono i soldi dall'ONU per la guerra al terrorismo e poi li usano per fare la guerra agli aquiloni. Dica, comandante Kappa, dobbiamo sconfiggere i bambini con gli aquiloni. Presto! Parli con accento pakistano e si munisca di forbici e vada a tagliare i fili di tutti gli aquiloni che vede in giro. Presto! In giro? L'accento pakistano! Dio, come si fa l'accento pakistano? Deve andare a cercarli, Tenente Drago! Dove? Sui tetti! Sui tetti? Certo, Tenente Drago! Ma io pensavo di andare in spiaggia! Siamo in Pakistan, Tenente Drago! Appunto, a Karachi c'è il mare. Ma siamo a Lahore! E a Lahore non c'è il mare! Ma c'è il fiume! Ho capito, tenente Drago! Ma i bambini stanno sui tetti, non in riva al fiume! Peccato, volevo fare la prova costume. Sarà per la prossima volta. Tenente Drago! In pakistano! Sì, comandante K. Ma allora? Ma allora? Ma tenente Drago! Ma questo carcere, io mi sento solo quando mi manchi tu. Il carcere, Iole, ma tu sei... Sì, ma il carcere intenso la scuola. No, lo so, ho capito. La scuola, sì. Io quando tu non ci sei. Ho capito, Iole. Sta male. Sì, ma io ti parlo anche, ci sono due letture, quella basica, sto a scuola, e poi il carcere, il simbolo delle canzoni neomelodiche, cioè il carcere, no? Poi lì già sede. Va bene, anche temi sociali, seri, no? Sì. Allora, carcere, va bene, tu, cioè, ogni tua strofa coglie il segno. Allora ti piace? Come non mi piace? Certo. E il ritornello fai tutto tu. Sai come funziona il carcere? Dobbiamo stare tutti insieme, uno fa le docce insieme, deve usare il bagno insieme. No, come bagni? Sì. Vai. I pacchi, pacco tuo e pacco mio. No, chi è tuo mio? Che poi pacchi sì. Di che cosa? E poi qui di che siamo in carcere, qui siamo all'asilo, io. Fai paura, fai discorsi da adulti. Che carcere, io voglio stare nei bagni con qualcuno e fare la doccia. Ho capito, ti tocca pure dormire. Chi? E io ho immaginato che quella sera stavo in carcere. Ah, ma tu stavi in carcere. Ma l'unica mia speranza è che la mattina mi svegliavo e c'eri tu. A farti il bagno, là sotto la doccia. No, come farmi il bagno? Un altro! Ma vai, ma... Adesso ho capito dei gay! Ma come si vede un altro? Ma cosa sei? Ma quello è il sogno! È l'incubo, no? Ho capito, però è bello, mi ha fatto andare a dormire! No, è stato... No, capito, ma senti, cioè, la cosa più naturale sarebbe che tu pensi a tua mamma o a tuo papà, no? Prima che... non a me, nel senso... Non riuscivo! Pensavo a te, Alberto, io l'unica cosa che penso è che non vedo l'ora che arrivo domani, perché voglio andare a scuola, Alberto, l'amico mio. La doccia, ma la doccia, ognuno a casa sua nel pop box doccia. Vuol dire che nel sogno sei rigido con le docce? Sì. No, e allora? Sì! No, allora basta, poi che ci sono sogni su, le tue turbe sono. Ma Gildo, ma lei è gay, Ma no, sta zitto, ma che gay, non gay? Cioè, Gildo come fai? Non può essere né gay né non gay. Come no? E lo penso che lo sarà così tutta la vita. Ma cosa ci facevo allora dentro la doccia con te? Ma non sono mica il tuo psicanalista, questi sono dei sogni, lo chiedi a me. Sono le tue turbe psichiche, a me dispiace solo che tu ci sono le nostre immagini, mie di Gildo, pure come dei gigli. Nei tuoi sogni, permettimi di dire, un po' sporchi. Di doccia! Tu figurati Gildo, doccia insieme? Insieme? No, allora. Anche vicini di letto proprio. No, che vicini di letto, la camionetta ci sta un letto. Allora, io dormo con mio fratellino, Gildo dorme da solo. Letto! La signora mi dice anche lei dorme da sola perché il suo padre... Lasciamo stare il padre. Lasciamo stare il padre! Beh, per te per forza non vedo alternative. Senti. Venerdì! Carmelo Lauricella. Cos'è Carmelo? No, fai il ringraziamento normale. Perché è venerdì, ma i ringraziamenti invece fanno parte della settimana, sono una cosa più istituzionale, vabbè, così come le pratiche. E quindi come facciamo le svogliatamente. Carmelo Lauricella, Laura Faggi. Grazie. Chi c'è? Marco Chiara Vignini, Campo Drago, Alberto Caserini, Salvatore Iorio, Guido Bertolotti. Ma adesso bando alle ciance perché. E quindi? Venerdì, fate quello che volete, tu andrai sul divano. col cane. C'è chi va in Pakistan. Ciao Tito, è venerdì anche per Tito. Anche tu con l'aquilone in Pakistan allora, va bene. Ma chi? Tito. We'll be right back.